Ci siamo, appuntamento con il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. Visionari, per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta di quest'oggi, si può consultare il sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, c'è anche la pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Diamo inizio alla puntata di oggi, molti gli ospiti, cominciamo con i collegamenti, un attimo di pazienza. Bene, cominciamo parlando di una rivista online, è uscito il 10° numero che comprende i mesi di dicembre e gennaio e si tratta di Sentieri Selvaggi Magazine. Ne parliamo con il direttore Aldo Spiniello, benvenuto al Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Non è la prima volta che ne parliamo di Sentieri Selvaggi Magazine, però per chi ci ascolta diciamo un po' di cosa si tratta. Praticamente è un'idea, diciamo, che era nata per, come dire, affrontare le nuove sfide dei nuovi supporti, tablet, quindi inizialmente deve essere un mensile pensato appositamente per i tablet, che radunasse un po', diciamo, tutti alcuni degli articoli fatti sul Sentieri Selvaggi, il nostro sito, ma che offrisse anche dei contenuti nuovi, nuovi ragionamenti, che in un certo senso, come dire, fosse una rivista di approfondimento. Poi naturalmente si è sviluppato in maniera diversa, ci sono dei ritardi, dei rallentamenti, però l'idea di fondo è quella, una rivista di approfondimento nata per specificamente per i tablet, che però naturalmente è leggibile anche da un semplice PC, insomma, PDF. Senti, e quanti anni sono intanto che viene editata? Abbiamo iniziato nel giugno 2012, quindi diciamo tra un po' faranno 2 anni, insomma. Che cadenza? E qual è la cadenza? Ecco, questo è un po', vuol dire, la variabile. Esatto, diciamo tra il mensile e il bimestrale. Naturalmente la sfida è quello di renderlo sempre più, come dire, puntuale nelle uscite, quindi questo è un impegno, diciamo, che richiede un po' di tempo, però sì, insomma, sì, piano piano ci arriviamo. Senti, come è strutturato più o meno un numero rispetto a magari recensioni, rubriche e quant'altro? Ma la parte delle recensioni in realtà è molto piccola, noi in genere scegliamo come recensioni solamente 5 film di quelli usciti nell'ultimo periodo che ci sono sembrati in qualche modo, non dico i più belli, ma i più significativi, quelli che portano avanti un discorso, come dire, emozionale e teorico più interessante. Invece il vero cuore della rivista è dato da degli speciali che naturalmente poi stabiliamo volta per volta, o a seconda delle urgenze, o a seconda di quelle che sono le nostre ossessioni del momento. Ad esempio nel numero 10 c'è questo speciale che è dedicato, come dire, al cinema del futuro che vediamo oggi, cioè queste trasformazioni tecnologiche che stanno in qualche modo trasformando il cinema, lo stanno ripensando, e nella produzione, nella pratica e nella fruizione. Sì, sì, sì. Senti, che tipo, avete un po' un sentore del grado di diffusione del magazine? Ma i numeri, devo dire che, diciamo, per la specificità del supporto sono abbastanza confortanti, cioè in qualche modo ragioniamo su i 5.000, come dire, lettori, che però aumentano, cioè è normale che con il passare del tempo si continua a scaricare ad esempio il numero prima della il numero uno della rivista. E quindi insomma, diciamo, il numero è, come dire, aumenta progressivamente con il passare del tempo. Intanto, vuol dire, sono tutti scaricabili, sì, dal nostro sito, e quindi si trovano lì. E diciamo, il numero è abbastanza confortante, considerando che è un mensile pensato per il magazine, un mensile, cioè, poi sappiamo che le riviste di cinema non hanno queste tirature chissà di quale levatura, però insomma siamo abbastanza fiduciosi che ci possa anche migliorare, tra l'altro. Certo. Senti Aldo, c'è un qualche grado di scambio con i fruitori? di interazione in qualche di qualche tipo. Devo dire che questo, per quanto riguarda il magazine, no, diciamo, lo è nella misura in cui è filtrato sempre dal sito. Nel sito l'interazione è molto forte, e per i commenti e per, vuoi dire, le segnalazioni che ci arrivano, le contestazioni che noi di Sentieri, come dire, riceviamo puntualmente, e ne teniamo conto naturalmente poi quando andiamo a immaginare il magazine. Però il magazine, questo ci deve sottolinearlo, non è solamente una cosa chiusa che rimane dentro Sentieri del Baggio. Cerchiamo il più possibile di aprirci anche a firme esterne, contributi, collaborazioni e via dicendo. Un'ultima cosa, una curiosità, è fonte di reddito per chi ci lavora o è passione pura? Ma tu sai che questa è la domanda sconveniente in realtà. diciamo che la passione è la cosa più importante. Mettiamola così. Questa passione unita a tanto sacrificio, magari qualche risultato ogni tanto lo porta. Diciamo, mettiamola così. Bene. Senti Aldo, allora ci dai in chiusura i riferimenti per chi volesse saperne di più? Sì, allora, il magazine è scaricabile dal nostro sito www.sentieriselvaggi.it, e nella barra in alto del sito trovate proprio la voce magazine, lì sono scaricabili tutti i numeri del magazine, ma già in home è possibile trovare il link per il numero 10, quindi l'ultimo numero, e insomma, quindi vi invito a leggerlo, ma anche a dare risposte, contestazioni, quello che volete. Certo. Siamo aperti a tutto. Benissimo Aldo, io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo per le prossime novità. Grazie a te, buongiorno a tutti, ciao. ciao. Aldo Spiniello, direttore di Sentieri Selvaggi Magazine, uscito con il 10° numero per quanto riguarda le mensilità di dicembre e gennaio. Allora, parliamo di nuovo di un documentario del quale avevamo cominciato a parlare con uno dei due registi, Alessio Genovese, la scorsa settimana. Sto parlando di EU013, l'ultima frontiera. Ne parliamo con l'altra regista, Raffaella Cosentino. Intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, benvenuto, vi ringrazio per questo spazio che ci stai dedicando innanzitutto. Allora, un documento e un documentario importante perché parla anche con uno sguardo all'interno dei centri di identificazione ed espulsione in tre strutture nazionali. Raccontaci un po' di questa storia, Raffaella. Allora, sì, diciamo che il documentario è girato sia alla frontiera, quindi al reparto internazionale di Fiumicino e al porto di Ancona, sia in tre centri di identificazione ed espulsione, che sono quello di Roma Ponte Galeria, di Bari e di Trapani Nilo. Questo perché noi crediamo che i CIE siano un pezzetto della politica delle frontiere, quindi volevamo inquadrare il fenomeno all'interno proprio di quella che è una politica, un'idea dell'identità europea che poi si configura come un qualcosa che si tende a vedere come distinta da ciò che è extraeuropeo, no? E quindi diciamo, secondo me da questa idea poi derivano i CIE, che non servono tanto a recludere degli stranieri, ma più che altro a rafforzare, diciamo, un'identità comunitaria che si sta creando adesso con la generazione Schengen, che poi siamo noi. Senti, Alessio ci parlava chiaramente delle difficoltà nell'entrare e dare testimonianza di come è la vita dentro e di quello che succede. Mi confermi questo aspetto? Sì, diciamo che lavorare all'interno non è stato per niente semplice. Noi rispetto, diciamo, alle visite giornalistiche classiche siamo riusciti effettivamente ad avere un qualcosa di più dal Ministero dell'Interno, vale a dire un'autorizzazione ad accedere per 2 giorni consecutivi all'interno di queste strutture. Però, diciamo, il tempo di lavoro è stato molto limitato, comunque a poche ore. nel senso che ogni volta che entravamo dovevamo poi comunque parlare con le prefetture, le questure, i rappresentanti delle forze dell'ordine, i rappresentanti dell'ente gestore, questo faceva perdere molto tempo. Poi se avvenivano, diciamo, come poi avvengono in questi centri, quello che abbiamo visto è che comunque la violenza è il modo in cui si comunica quotidianamente, quindi dalla distribuzione dei pasti con la quale ci sono tensioni, tentativi di fuga, oppure le rivolte, come ci è successo nel CIE di Ponte Galeria, dove noi eravamo all'interno quando c'è stata la rivolta che poi ha completamente distrutto la sezione maschile nel CIE a febbraio dell'anno scorso. Questo ovviamente erano tutti ulteriori elementi che noi non potevamo prevedere prima, anche se sapevamo che sarebbe stato difficile il lavoro all'interno. Quindi tutto ciò, diciamo, ha fortemente condizionato poi il modo in cui è stato svolto il lavoro, le riprese e successivamente anche il montaggio. Per dirne una, diciamo, rispetto a Wolf Special, che è il documentario girato in Svizzera, sempre all'interno di questi centri, in cui il regista e la troupe sono rimasti 9 mesi all'interno di un CIE svizzero, noi con questi pochi giorni e queste limitazioni, senza contare il fatto che quando succedevano poi dei problemi ovviamente venivamo bloccati, stoppati. In un'occasione ci è stata tolta la batteria della telecamera al cameraman. Tutto questo sicuramente ha condizionato il nostro lavoro. Quello che noi abbiamo cercato di fare più di tutto è di renderlo palese, però, tutto ciò, diciamo, no? Di non nascondere niente a chi poi vede il lavoro. Oh, parlavi, ecco, della violenza, che è un aspetto fondamentale. Avete avuto modo di interagire anche con chi è recluso all'interno e cosa avete ascoltato dalla loro viva voce? Sì, nel senso che diciamo che l'elemento nuovo di questo lavoro è che noi siamo dentro la gabbia, non al di fuori, no? Quindi questa era la nostra intenzione primaria, cioè portare le persone con noi, sfruttando la possibilità di queste autorizzazioni e di questo lavoro più artistico all'interno della gabbia di C, e quindi fare vedere le persone nella loro umanità anche nel momento peggiore, che è quello del fallimento, perché quando sei rinchiuso in C è evidentemente fallito il tuo progetto di vita. E poi, come sappiamo bene, le situazioni da cui si tendono a non uscire mai, è una sorta di ergastolo bianco, perché anche se poi esci, al successivo controllo dei documenti verrai poi di nuovo rinchiuso nel CIE. Queste persone hanno accettato di raccontarsi e hanno vissuto questa esperienza anche con un momento positivo, nel senso che Raffaella, ti sento un po' in collegamento che va e viene. Adesso meglio. Pronto? Sì, adesso meglio. Ecco. Dicevo che queste persone hanno accettato di raccontarsi, vivendo questo momento con noi anche come un momento diverso rispetto all'occhio forzato in cui sono costrette per 18 mesi quotidianamente. E quindi proprio hanno collaborato tantissimo nel racconto. Diciamo che noi non abbiamo avuto nessuna situazione pericolosa per noi o per la nostra persona. Certo. Raffaella, che tipo di... Allora, ho saputo che c'è stata una proiezione, una presentazione al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma. Ecco, ce ne saranno prossime in futuro e ci puoi dare in questo senso dei riferimenti anche internet? Sì, io dico di guardare sempre la pagina Facebook di EU013 L'Ultima Frontiera, di aiutarci anche a farla circolare, cliccando mi piace, diffondendola. Sulla pagina Facebook, oltre a far circolare anche informazioni sui CIE che via via abbiamo, vengono fuori, mettiamo anche ovviamente il calendario delle proiezioni che riusciamo a fissare di volta in volta, ricordando che è un lavoro autoprodotto, autodistribuito, quindi attraverso una distribuzione dal basso. Sicuramente ci sarà un'altra proiezione a Roma, probabilmente nello stesso cinema, però ancora ci stiamo organizzando. Poi ci sono altre proiezioni che si stanno organizzando un po' in tutta Italia, tutto sulla pagina Facebook, comunque le metteremo lì. Benissimo, in prospettiva spero che ci sia anche l'idea di una qualche forma di distribuzione oltre a questi eventi singoli. Sicuramente noi lo vogliamo distribuirlo più che possiamo. Certo. Questo però, diciamo, dipende da noi relativamente, vediamo un po' l'interesse che c'è attorno al lavoro. Devo dire che già è tanto, perché a Roma abbiamo fatto il tutto esaurito su 2 proiezioni, sono venute 400 persone a vedere il documentario, anche a Milano la sala era piena, cioè dovunque andiamo, a Palermo 200 persone non è poco, dovunque andiamo stiamo riscontrando molto interesse, soprattutto anche da parte del pubblico giovane. Quindi questo per me è l'elemento anche politico più dirompente. Certo, certo. A questo punto, Raffaella, teneteci informati sui prossimi sviluppi e magari ci sarà anche modo di riparlarne. Perfetto. Va bene. Sì, altro. Allora un abbraccio e speriamo tutto bene. Ok, grazie. A presto. Mille. Ciao Raffaella. Ciao. Bene, Raffaella Cosentino, co-regista del documentario EU013, L'ultima frontiera, il documentario di cui abbiamo appena parlato. E passiamo adesso ad un altro lavoro, un'altra voce femminile, questa volta è Alessandra Celesia, regista del documentario Il libraio di Belfast, inserito nella cinquina di lavori italiani presentati nella rassegna Il mese del documentario di Doc It alla Casa del Cinema qui a Roma, e sarà in programmazione, la prossima data è sabato 25 gennaio. Alessandra, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno. Intanto complimenti, ho avuto modo di vederlo il tuo lavoro e lo stavo anche seguendo da un po' perché era pure in programmazione al Bellaria Film Festival, e quindi da un po' di tempo cercavo di collegarmi con te, ci sono alla fine riuscito. Allora, tra l'altro è una storia un po' triste perché in questi giorni è venuto a mancare proprio il protagonista di questa storia, vero Alessandro? Sì, purtroppo ci ha lasciati venerdì in maniera abbastanza improvvisa, non ce l'aspettavamo, e ci manca già moltissimo perché è un personaggio, come hai visto dal film, sì, sì, molto, a cui ci si affezionava facilmente, insomma. Sì, sì. E ho potuto andare a Belfast e stare con la famiglia e gli amici suoi e accompagnarlo martedì al funerale. Mm-hmm. Alessandra, raccontaci anche come è nata questa avventura che ti ha portato al Belfast e a documentare questa storia, questa bellissima storia. Sì, la storia è abbastanza antica, io sono sposata in realtà con un ragazzo di Belfast ed è così che ho cominciato a frequentare questa fredda città del nord, e cercavo un libro per tutt'altro soggetto che immaginavo di fare e mi hanno indirizzata verso il libraio. E quando l'ho visto è stato amore a prima vista e mi sono detta vabbè, l'altro soggetto non ha senso rispetto a questo che mi trovo davanti, e quindi in realtà poi per quasi 7 anni sono tornata a vederlo regolarmente, sempre promettendogli che un giorno l'avrei filmato, ma non trovavo mai i soldi finché un giorno c'è stata la possibilità di farlo. Mm-hmm. Che storia è quella di questo protagonista che un po' si racconta anche nel documentario? Il libraio di Belfast è un grosso appassionato di libri, diciamo che libraio per vocazione non tanto per professione, ha regalato più libri di quello che ha venduto ed è stato un po' un'anima della città, cioè ha comunque partecipato a quello che secondo me è la cosa più bella dell'Irlanda in generale, di Belfast in particolare, che è l'amore che hanno per le parole, per i libri, la poesia, la letteratura. E alla fine non aveva più libreria, ma aveva a casa sua milioni di volumi, e per me era un po' come un'arca di Noè, diciamo, del sapere, della bellezza di un paese che conosce però anche molta violenza, ecco, quindi un'arca di Noè che salva il più bello dal naufragio. Ecco, a questo proposito, nel documentario ci sono anche due coprotagonisti, due giovani di Belfast. Sì. Anche loro sono due bei ritratti. Sono sì, due personaggi a cui mi sono affezionata moltissimo. Non volevo che fosse un film passeista, perché in realtà il libraio non è un personaggio del passato, era molto presente nel presente, continuava ad avere relazioni appunto con i giovani, con chi ha tirato dai libri. Quindi c'è questo rapper che è un poeta di oggi, un poeta contemporaneo che scrive e compone nella sua cameretta dei testi secondo me molto belli. E il fratello del rapper, che invece è stato una specie di regalo del cielo, nel senso che ho trovato a Belfast un punk che ama la musica, l'opera lirica, ama l'Italia, Roma, la storia dei romani, anzi non è punk ma si fa queste pettinature in onore dei centurioni romani, ed è un po' un personaggio a parte, ecco, nel quartiere dove abita, forse nessuno ha i suoi gusti dove lui abita. Senti, ecco, dicevi di violenza e di amore per la letteratura e per l'arte in generale. Ecco, la realtà di Belfast oggi. Vorrei dire che è cambiato tutto, in realtà un po' sotterranea questa storia, metterà molto tempo a passare. Credo che sia una storia che forse noi italiani possiamo capire abbastanza bene quando pensiamo alle faide fra cosche mafiose. Detta così sembra un po' grossa, ma è abbastanza vero, cioè in realtà c'è una violenza che forse metterà una o due generazioni a passare, va meglio di prima, senz'altro, e quello che si può sperare è che appunto si tengano vive le cose più belle, più forti della città, che forse, e questo nel film credo che si senta, è proprio la capacità di relazionarsi fra gli individui, c'è un grosso calore umano, molto, molto mediterraneo, molto poco nordico, ecco. Quindi un grosso senso di comunità. Sì, tantissimo, nel bene e nel male, nel senso che forse è proprio quello che li ha anche divisi, comunità, sono io da una parte e tu dall'altra, però anche proprio un grosso senso di, cioè si sta in piedi se si è in due, che è un po' la canzone che il rapper ha composto sì. Per la fine del film, in due si sta in piedi, da soli si cade, e questo è abbastanza all'ordine del giorno. Sì, sì, sì. Ecco, a proposito di comunità, voglio chiederti anche rispetto alla crisi economica a livello europeo e anche alle aspirazioni di indipendenza, com'è la situazione su questi due aspetti? La crisi è proprio un soggetto molto, molto attuale, nel senso che quando io sono arrivata a Belfast nel 95 c'era stata questa grosso boom economico che ha spinto l'Irlanda in un livello di ricchezza che proprio non conosceva prima. Belfast, un po' sull'onda di Dublino, dell'Irlanda del Sud, ha conosciuto la coda di questa cosa, però era una specie di dopoguerra in cui c'era una grossa corsa appunto al consumo anche, no? Molto, molto accentuato, si sono aperti più grandi centri commerciali, si andava nei ristoranti, si compravano macchine, si facevano i debiti per le cucine, una specie di Italia degli anni 80, diciamo. E adesso da direi 4 anni, 3 anni proprio molto secca, è arrivato un colpo duro, quindi tutto il mercato immobiliare è caduto, la gente si trova in grossa difficoltà, quindi non è un momento facilissimo in realtà anche per l'Irlanda. Per quanto riguarda l'idea di indipendenza, non so più bene dove vogliano stare, non so più bene se vogliono essere indipendenti, le ultime cose è tutto abbastanza confuso ora. Credo che la storia abbia cambiato talmente tante volte l'identità di questo popolo che non sono forse né più irlandesi né più veramente inglesi. Ho l'impressione che l'Irlanda del Nord e Belfast sia proprio quasi un paese a parte ormai. Mm-hmm. Quindi non so cosa da che parte decidere di stare. In questa realtà, Alessandra, nel suo piccolo, il libraio di Belfast è stato un po' un punto di riferimento, un collante di qualche tipo. È proprio giustissimo, nel senso che lui lavorava in questo mercato che era al cuore della città, che si chiamava Smithfield Market, dove prima come apprendista in un negozio di libri e poi ha avuto le sue librerie. Era un quartiere frequentato, un mercato frequentato sia da protestanti che da cattolici, quindi lui è sempre stato di quelli che hanno attraversato questa storia senza scegliere, e anzi essendo al servizio delle due comunità senza nessun tipo di giudizio. Questo mercato è stato poi fatto saltare in aria, purtroppo, forse proprio perché era troppo mescolato e mescolante. Troppo aperto. Alessandra, allora c'è stato un percorso festivaliero, dicevamo del Bellaria Film Festival, adesso del mese del documentario di Doc It, e volevo chiederti, ecco, se è prevista anche una forma di distribuzione qui in Italia. Dunque il film effettivamente, come diceva il libraio, per un film fatto in casa è incredibile il percorso che ha fatto, nel senso che davvero ha fatto il giro del mondo, siamo andati anche in Nuova Caledonia, insomma in Canada, è stato in Cina, esiste una copia sottotitolata in cinese che era il grande orgoglio del libraio. In Italia non sappiamo, nel senso che già diverse associazioni, diversi festival lo hanno programmato, dal Cinema del Reale in Puglia, Punta Bellaria. Adesso speriamo che con questo mese del documentario, insomma, ci siano altre richieste. Una distribuzione in sala la vediamo abbastanza impossibile, anche per la lunghezza del film, che fa 54 minuti, quindi una distribuzione, diciamo, ufficiale in sala non credo. Credo, spero che comunque continuerà a avere la sua vita in questo modo, invitato in occasioni particolari. Bene. Alessandra, allora speriamo bene, vediamo un po' cosa succederà. Io ti ringrazio, ancora complimenti e a risentirci presto. Grazie, grazie mille, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Alessandra Celesia, regista del documentario Il Libraio di Belfast, alla Casa del Cinema, all'interno della rassegna Il Mese del Documentario di Doc It, qui a Roma, per sabato 25 gennaio. In collegamento con Donatello Fumarola, pronto, intanto ben ritrovato Donatello. Ciao, ciao. Allora, tu sei uno dei curatori del Mettiamoci la Faccia, questa rassegna che stiamo organizzando al Teatro Valle Occupato. È stata la volta martedì dei Malastrada, del collettivo Malastrada, con cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana nella scorsa puntata, e questa volta invece sabato ci sarà un secondo appuntamento, un bel appuntamento con Amos Gitai, che sarà qui a Roma a presentare il suo ultimo lavoro, Ana Arabia, che è in anteprima nazionale, è stato presentato a Venezia, dove ha vinto anche un importante riconoscimento, e ci sarai tu a condurre la serata. E io partirei intanto con un breve ritratto di Amos Gitai per chi ci ascolta, Donatello. Wow, allora lo faccio mentre scolo la pasta, quindi con tutto, diciamo, il beneficio. Un ritratto di Mosquita è difficile. Lui è figlio di uno degli architetti del Bauhaus, ha iniziato facendo negli anni 70 film di architettura, e in qualche modo ha seguito questa sua ossessione, che si fa studio, che credo abbia studiato l'architettura, nel tempo, facendo poi un cinema da una parte di mappatura, dall'altra di svelamento anche delle dinamiche, diciamo, architettoniche, che tra Israele e Palestina in realtà sono una specie di punto chiave rispetto all'occupazione dei territori che i coloni israeliani occupano, alle case espropriate. Quindi, diciamo, questo si intreccia il discorso politico con quello che è un discorso anche di metodo rispetto al fare. C'è una cosa molto bella che non vedremo domani, quindi domani è una cosa curiosissima in questo senso, perché è un piano sequenza, cioè ripreso dall'inizio alla fine senza stacchi, e c'è in un suo film che spiega molto bene il suo metodo. Lui, diciamo, mostra allo spettatore come filmare un camera car laterale, e c'è sempre questo elemento un po' didattico sul metodo, cioè il modo in cui si filmano le cose è importante tanto quanto le cose raccontate o filmate, e in questo è abbastanza, diciamo, unico e anche un po', dico rossellignano, se qualcuno sa chi è Rossellini, proprio in senso anche didattico, scusa che sono scottato con la pasta. La cucina in diretta. Lo apprezzerebbe, perché è un po' la vita quotidiana che entra nel coso, che nei suoi film c'è sempre. Sì. C'è l'imprevisto, l'accidente, c'è una sua critica molto feroce, secondo me molto più che visibile, rispetto al modo in cui gli israeliani costruivano i territori occupati, che non rispettavano le esigenze basilari delle famiglie arabe, che erano numerose, c'erano grossi debiti, che si costruivano palazzine con monocamere che non rispondevano in nulla alla, a quelle che poi erano le reali esigenze delle persone che erano poi costrette ad andare a abitare lì, mm-hmm. per giustificare la pasta. Senti Donatello, alcuni degli aspetti interessanti della figura di Kitaj è che per esempio lui ha partecipato come riservista alla guerra del Kippur e lì faceva le riprese Super 8 e lì ha affinato anche la tecnica cinematografica. Un altro aspetto è quello relativo proprio al suo modo di fare cinema, che gli ha portato parecchie critiche, attacchi, anche censure, e da lì anche la decisione di andare all'estero a vivere. Si è trasferito prima negli Stati Uniti e poi in Francia, a Parigi. Sì, in realtà lui vive un po' a Tel Aviv, un po' a Parigi, cioè, sì. Non è proprio un esule, sarebbe un po' una forzatura disegnare addosso la figura dell'espatriato, del cacciato, anche se è criticatissimo. I suoi figli non hanno una grande distribuzione, come non c'è nemmeno da noi, o nemmeno in Francia. Solo precisare, la cosa di Kippur è poi raccontata nel film che si chiama Kippur. Sì. Lui è stato poi militare. Quello che racconta Kippur è filmato uguale ad Anna Rabia, che è quello che vedremo sabato. È la sua storia. Lui è caduto da un elicottero dell'esercito, si è rimasto impantanato, ha rischiato di morire, ma è molto bella la cosa che stavi ricordando. Sì. Però mi ricordo perché stanno dicendo questo ok, ci sei? Scusa, ho passato la pasta ad altri. Stavamo dicendo? No, io dicevo sì, dell'esperienza nella guerra del Kippur e poi insomma comunque delle censure e in qualche modo anche attacchi che ha subito il suo lavoro in patria. Sì, non so se è un modo giusto di ripeto, dei molti attacchi che ha subito, vere e proprie censure, a parte la ferocissima censura di mercato, non ne ha mai avute. Io sapevo della televisione, come molti esuli, di essere andato a girare all'estero lo ha liberato da problemi censori, dal fatto di dover consegnare il film appunto all'ufficio censura, quindi avere o non avere autorizzazione a proiettarlo. Alcuni in Israele non sono mai stati proiettati, perché solo per precisare rispetto alla cosa di censura, certo, che rischia di essere ingannevole, cioè, a volte ci sono un sacco di registi che cavalcano questo elemento, ma non per sminuirlo, ma spesso è anche un po' non un vittimismo, però un modo per guadagnare più celebrità all'estero, come da noi era stato il film su Genova, che era stato fatto, un film che è stato fatto su Genova 2001. Gli autori se lo sono autopresentato come censurato dalla RAI, mentre era prodotto dalla RAI, che l'ho mandato anche in onda, quindi a volte sono anche un po' modi sinistri, da sinistra, per darsi anche un po' una autorevolezza. Kitaj, secondo me, una sua cosa è che non ha mai fatto la vittima, fatto da un israeliano lo trovo ancora più apprezzabile in qualche modo. Pararla troppo grossa, Ecco, rispetto, dicevi, alla sua critica rispetto alle modalità delle costruzioni delle colonie nei territori occupati, ecco, a questo proposito ti chiedo anche rispetto alla questione centrale e cruciale delle colonie israeliane nei territori palestinesi, ecco, lui come si pone? In modo molto critico, ma in senso, non voglio dire umano, perché anche se è quello poi alla fine, e il film che vedremo sabato racconta anche questo, cioè una ragazza israeliana, borghese, fa la giornalista, che va in questo luogo dove percepisci quelle che sono proprio le contraddizioni di quell'area, di quel luogo, diciamo, i palestinesi, gli israeliani, i palestinesi che stanno lì da generazioni, l'intreccio è meno chiaro, è meno ovvio, è meno scontato di come poi in realtà spesso lo si presenta, quindi a volte hai elementi di convivenza che l'Italia non ha mai, diciamo, mancato di registrare, di presentare, di mettere in scena. Le contraddizioni nascono anche da questo. Per come la percepisco io, la interpreto io così, è anche una critica sua, diciamo, più sistematica, di sistema. Non è una critica necessariamente contro Israele, ma è rispetto a qualcosa di un po' più complicato e di più strutturato che non una nazione che nei fatti ne occupa territori non suoi. Non so, per me è una critica d'un'intelligenza e di un'efficacia uniche, perché non è rivendicativa, però andrebbe poi in realtà, no, parlato quasi solo di questo in modo meno casuale e approssimativo di quanto lo stia facendo io. Spero che con Amos ci sia la possibilità di farlo, e sono sicuro che ci sarà, di farlo sabato sì, sera. Sì. Per cui lanciamo nuovamente l'appuntamento sabato 25 alle ore 21 al Teatro Valle Occupato, Amos Gitai che presenta il suo film in anteprima nazionale, Ana Arabia, film presentato al Festival del Cinema di Venezia lo scorso, l'ultimo festival dove ha ottenuto anche un bel riconoscimento non solo di critica ma anche ha ricevuto un premio, e la serata sarà in qualche modo condotta da te, Donatello. Io ti ringrazio, un abbraccio e ci vediamo sabato. Grazie, ok. Sabato allora. Ciao ciao. Ciao ciao. Questo Donatello Fumarola. Bene, abbiamo con noi Domiziano Cristofaro, regista del film Red Crocodile, in uscita in sala giovedì 23 gennaio. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie per avermi invitato. Allora, si tratta di un'uscita di distribuzione indipendente, si parla di droghe, di una droga in particolare, una droga chimica, di che tipo, Domiziano? È una droga che si può sintetizzare facilmente anche in casa e quindi ha preso piede in regioni molto povere come, insomma, certe regioni della Siberia e della Russia, poi si espansa proprio perché con un paio di dollari, insomma, si riesce ad accedere a tutto il necessario per poterne fabbricare una discreta quantità. Dà un effetto fino a 10 volte più forte dell'eroina, ma ha una durata fino a 8-9 volte inferiore, quindi insomma dà una dipendenza abbastanza totale, proprio perché l'impatto è più forte, la durata è minore, quindi ci si fa in continuazione. Senti, quali sono le controindicazioni di questa sostanza? Beh, come in tutte le droghe, le controindicazioni sono tante, in particolar modo questa qui ha la particolarità rispetto alle altre di mostrare degli effetti devastanti anche fuori, insomma, laddove le altre droghe lasciano segni oltre che sulla psiche, anche insomma organi interni eccetera, questa qui distrugge la pelle, la carne, i muscoli fino a lasciare le ossa scoperte. La stima di vita di un tossicodipendente è dai 2 ai 3 anni massimo dal momento in cui inizia a bucarsi, appunto con questi effetti abbastanza devastanti sull'organismo. Viene chiamata crocodile, coccodrillo, proprio perché appunto nella zona in cui ci si comincia a fare la pelle diventa squamosa, si comincia a pellare e poi insomma ecco, si creano dei veri e propri buchi visibili, insomma, della carne che lasciano scoperte le ossa. Senti, dicevi che si sta diffondendo abbastanza di recente ed ha degli effetti devastanti, e ci sono dei rimedi o si sta correndo ai ripari in questo senso? No, sembra di no. Rimedio non c'è, nel senso che è molto difficile smettere perché dà una dipendenza veramente totale, quindi chi prova a smettere deve comunque essere bombardato da altri tipi di droghe per poter sedare gli effetti, come appunto shock anafilattico, attacchi di epilessia e cose di questo tipo. Quindi è una cosa veramente devastante, si è diffusa molto in Russia, ma già dal 2002 che ha dato segni di vita. Sta lasciando, allora, se ne sta parlando adesso anche in Germania, America e anche Italia, quindi il fenomeno si sta un pochino diffondendo, anche perché assurdamente c'è gente che per curiosità la vuole provare, quindi è un fenomeno un po' preoccupante. Insomma, noi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui era presente anche un esperto, secondo lui in Italia il fatto che insomma abbiamo qualche soldo in più della Russia e droghe un pochino più buone a livello di fattura, insomma, probabilmente non dovrebbe prendere piede una droga principalmente per paesi poveri, insomma. Però ecco, è comunque preoccupante il fatto che si desti una curiosità quasi positiva, insomma, nei confronti di una cosa del genere e non respingente. Ecco, già il fatto però che dicevi che è esplosa in paesi poveri ci dà anche un po' un'indicazione rispetto all'uso che se ne fa, in quali settori se ne fa e cosa poi comporti tutto questo. Teniamo presente appunto che insomma se ne comincia a parlare molto adesso, ma sono già più di 10 anni che questa droga esiste. Era un fenomeno arginato appunto nei paesi più poveri dell'Unione Sovietica, in quest'ultimo anno e mezzo ha cominciato a barcare un po' i confini. Questo è un po' più preoccupante. Sì. Noi sì, me l'abbiamo pensato già dai tempi in cui la droga non era un fenomeno così mediatico. E affronta il tema della droga come una metafora di distruzione principalmente, quindi non è un film documentaristico, certo, sulla droga, certo. Droga, quanto più in generale usa questa droga che è proprio estrema in tutti i suoi aspetti, come una metafora appunto di distruzione interiore. Di autodistruzione in qualche modo. Esatto. Ecco, raccontaci un po' anche un po' in sintesi quello che è il film Domiziano, scusami. Beh, il film appunto racconta attraverso questa metafora di dell'utilizzo di questa droga proprio la scelta cosciente di un uomo che si autodistrugge. Questo uomo rappresenta un po' tutti gli uomini. È un film molto coraggioso. È coraggiosa anche la distribuzione a distribuirlo, perché insomma è un film sicuramente difficile, non è un film commerciale, non è un film per tutti, nonostante tutto insomma sta avendo un buon riscontro di pubblico e critica, quindi fa piacere vedere che il contenuto spesso supera la forma, insomma, in un periodo in cui al cinema se non si vedono cose dal ritmo televisivo sembra quasi che non si debba arrivare, no? Sì. Quindi insomma fa piacere vedere che qualcosa che abbia un contenuto diverso viene comunque recepito dal pubblico, che spesso viene dispersato proprio dalle distribuzioni. Se già sono le distribuzioni a pensare che il pubblico è ignorante, allora merita soltanto certi tipi di film. Non è così, insomma, la gente ha bisogno di poter scegliere cosa andare a vedere. Se gli si dà la scelta, ci si può anche sorprendere di cosa sceglie. Ecco, proprio in questo senso, Domiziano, e l'incontro con distribuzione indipendente? L'incontro con distribuzione indipendente è venuto già un anno fa per il progetto Po, che era un altro progetto coraggioso che riuniva 13 registi underground italiani, ognuno di loro rileggeva a suo modo un racconto di Edgar Allan Poe, quindi ne è venuto fuori un film molto bizzarro, molto poetico, molto surreale, insomma vari aggettivi si possono usare, comunque un film composto da 13 storie tra i 6 minuti e i 10 minuti l'una, e distribuzione indipendente è subito rimasta convolta dall'energia di questo progetto, dall'idea, ci ha permesso di arrivare in sala un film appunto totalmente indipendente, e questo bis insomma nel mio caso si è poi concretizzato anche con Red Crocodile, che sì, invece è un film a tutti gli effetti insomma di una sola persona, e devo dire che si stanno muovendo molto molto bene, perché ripeto, il fatto che loro propongano un catalogo alternativo e abbia questa diffusione che si riesce ad avere è importante, è un segnale molto molto importante. Sì, quello sì, che ho sempre sostenuto io è che da noi mancano proprio i distributori, cioè i distributori come una volta che erano persone appassionate di cinema, oggi sono dei businessmen che gestiscono un film come gestirebbero una ristorazione, cioè sì, l'importante è offrire qualcosa che piace alla gente, sì, ma poi loro non sanno cosa piace alla gente, non rischiano, non guardano neanche il film che proiettano, cioè loro vanno sui nomi del cast che funziona, sull'idea che la commedia tira e finisce lì. Sì. Infatti potrebbe aprire una polemica molto ampia sì, ecco, sulla cosa. Domiziano, da oggi nelle sale, e per saperne di più sul tipo di distribuzione, ci puoi dare dei riferimenti internet? Sì, guarda, il sito di distribuzione indipendente, che si chiama appunto distribuzioneindipendente.it, ha una lista di sale dove i film vengono proiettati proprio come circuito. Quindi ci sono circa 40-50 sale in tutta Italia. Una persona si collega sul sito e vede qual è la più vicina alla sua città, zona, insomma. Bene. Domiziano, io ti ringrazio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi il lupo, speriamo prestissimo. Ciao ciao. Grazie, buona giornata. Ciao. Pure a voi, ciao. Domiziano Cristofaro, regista del film Red Crocodile, in uscita in sala oggi giovedì 23 gennaio con distribuzione indipendente. È con noi Daniele Gaglianone, regista del film La mia classe, in uscita in sala oggi giovedì 23 gennaio. Intanto ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato di nuovo. Daniele, sì, perché noi ci siamo sentiti diverse volte per i tuoi lavori precedenti. Ricordo ancora molto vivamente quel tuo film in bianco e nero sulla Resistenza, che mi ha veramente segnato, è stato veramente un bel lavoro. E quindi parliamo oggi della mia classe, un esperimento curioso, la realtà in cui fa, cioè una finzione, un film di finzione in cui fa poi ingresso prepotentemente la realtà. E come lo racconteresti in breve, Daniele? Okay. No, allora, potrei dire innanzitutto, per non spaventare gli spettatori eventuali, che il film, pur essendo a parole magari apparentemente complicato, in realtà è molto semplice e facile da vedere, insomma, finché arriva molto, in modo molto diretto allo spettatore. Ma guarda, il film narra appunto le vicende di un professore, interpretato da Leo Mastandrea, di un professore che insegna italiano a una classe di studenti stranieri. Gli studenti stranieri veri, cioè nel senso di studenti che vanno realmente a scuola a imparare l'italiano. L'idea iniziale era appunto di quella di far incontrare l'universo immaginario di un personaggio di finzione con l'universo autentico di questi studenti, gli studenti adulti, ecco, dai 20 ai 50 anni. E avevamo pensato anche appunto a degli sviluppi verosimili di alcune delle situazioni degli studenti. Se non che, insomma, mentre stavamo lavorando alla preparazione, alcune delle cose che avevamo pensato come sceneggiatori, giocando con la realtà, giocando tra virgolette, sono cadute sul serio. E questa cosa qua ci ha indotto a modificare la struttura del film. E il film, insomma, si presenta come un oggetto magari anche un po' strano, un po' difficile da classificare, perché all'inizio lo spettatore penso che abbia l'idea di trovarsi di fronte a una sorta di finzione, però c'è anche una specie di backstage. Poi alla fine credo che a un certo punto lo spettatore smette di chiedersi cosa sta guardando, se quello che sta guardando sia vero o falso, e come dire, si lascia trascinare dal film. Almeno questo è quello che devo dire, anche le reazioni confortanti che sto avendo in tutta Italia fino adesso. Devo dire che il film sta riscuotendo un grande riscontro, grande empatia da parte del pubblico. Sì. Oh, una cosa che ho già detto all'incontro stampa, c'è la presenza importante, a mio modo di vedere, perché lo seguiamo fin dai suoi primi lavori, Gianluca Arcopinto alla produzione. Voglio anche ricordare che nel 2010 la FICE, la Federazione Italiana dei Cine Club d'Essai, lo ha designato come miglior produttore dell'anno, e mi sembra anche questo un connubio importante e molto interessante, quello con Gianluca. No, non Daniele. Ma guarda, io devo dire che tutti i film che ho fatto fino adesso, e ci metto pure anche il documentario sulla Bosnia, l'ho fatto con Gianluca, anche magari appunto, ad esempio nel documentario la sua, il suo impegno produttivo non era predominante, però lui mi ha sempre accompagnato in questi anni, e devo dire ormai siamo con questo il sesto film, compreso anche il documentario, e io penso che ogni tanto credo che forse nessun altro produttore mi avrebbe fatto fare come l'ho fatto i film che citavi prima tu nel 2000, i nostri anni che è stato anche l'inizio insomma del nostro rapporto cinematografico, ecco. Io mi trovo, come dire, è una persona che ha una visione delle cose che io condivido, e insomma senza anche tanto, non è che ci facciamo grandi discorsi, diciamo che quest'ultima avventura è un'avventura importante che, come dire, suggella anche un'attitudine al rischio, alla sfida, questa sorta di idiosincrasia per le cose che potrebbero essere facili, no? Però devo dire che ci sta dando grandi soddisfazioni. Spero che da stasera queste soddisfazioni diventino molto molto più grandi con il pubblico romano che in massa corre a vedere questo film. Senti Daniele, devo dire un film che è stato fondamentale, è ancora adesso l'apporto di Valerio. Certo. Ecco, volevo chiederti questo rapportarti, questo confrontarti con tanti ragazzi, tante ragazze di diversa provenienza, cosa ti ha portato? Qual è il bilancio che fai di questa esperienza? Ma io ho un bilancio personale anche intimo, diciamo, è incredibile, cioè io ho imparato tantissime cose, sono andato a scuola anch'io facendo questo film, e è stata un'iniezione di vitalità l'incontro con un mondo che è quello delle scuole di italiano, e poi con delle persone che veramente hai proprio la sensazione di incontrare il futuro proprio come prospettiva, come desiderio. Per pensare a come hanno affrontato la vita, delle situazioni pazzesche, le persone con cui ho condiviso questo progetto, è una cosa che mi porterò dietro per sempre, credo. E comunque la cosa che mi fa piacere è che al di là del film, al di là del risultato anche del film, il fatto di intraprendere questa avventura comunque a qualcosa è servito, perché ad esempio molti degli studenti della nostra classe sono diventati amici e si frequentano, e già solo per questo soddisfatto che il film sia stato un luogo di aggregazione, di incontro e di amicizia, ma come dire, che conosce me prima persona anche, insomma. Sì. Bene Daniele, allora da oggi nelle sale La mia classe, qui a Roma, se non sbaglio al nuovo cinema Aquila, giusto? Sì, è nuovo cinema Aquila. Devo dire che un gran bel cinema. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Va bene, grazie a voi. Ciao Daniele. Ciao. Daniele Gaglianone, regista della mia classe. Con noi Angelo Draicchio di Replays Film per parlare con lui della distribuzione in sala di Hannah Arendt della regista Margaret von Trotta, che uscirà in sala il 27 e 28 gennaio. Angelo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi dell'invito e buona giornata. Oh, mi sembra un momento importante, perché il film l'ho visto, mi è piaciuto, e anche un segnale in questo senso, anche se purtroppo per soli 2 giorni questa proiezione, Angelo. La distribuzione in realtà parte come evento speciale nella giornata del 27 e del 28, però proseguirà naturalmente bene. Tutte le sale che hanno intenzione e hanno deciso di proseguire, così ci sarà comunque un'ulteriore circuitazione in tutta Italia. L'uscita è abbastanza importante, perché siamo riusciti a avere la partecipazione di oltre 100 sale in tutta Italia, copriamo tutte le maggiori città italiane e anche il resto del paese. Diciamo che è un ottimo risultato. Sì. Oh, Angelo, una delle figure centrali del Novecento, una grande intellettuale, filosofa, che si è tirata addosso anche parecchie critiche, ma oggi resta un punto di riferimento determinante. Beh, diciamo che è una figura centrale del Novecento, per il pensiero del Novecento, per la cultura, la storia del Novecento. Personaggio scomodo, perché appunto alla ricerca di continui riscontri, e una delle figure che con una onestà intellettuale incredibile ha posto in dubbio tutta una serie di convinzioni che nell'immediato dopoguerra e negli anni a venire erano sorte in Europa e anche in altri paesi. E soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, dove comunque diciamo l'anti-giudaismo, l'anti-ebraismo era molto forte, quindi una figura molto coraggiosa. Sì, ecco, proprio in questo senso le critiche principali sono state due: da un lato una sorta, l'hanno accusata di giustificare in qualche modo, perdonare Eichmann, e dall'altra il suo aver puntato il dito contro i capi della comunità ebraica, che in qualche modo hanno negoziato in qualche modo con Eichmann. Tutte e due le accuse piuttosto ingenerose verso insomma una figura che ha anche provato poi, tra l'altro, i campi di internamento durante la guerra. Assolutamente sì. Diciamo che quello che succede all'Arendt con la pubblicazione del reportage dal processo Eichmann in Israele è appunto un attacco molto forte, perché rompe le convinzioni su cui si fonda tutta la cosiddetta cultura della memoria. Israele è uno Stato che ha bisogno di avere delle certezze. Il processo Eichmann è uno dei più grandi eventi mediatici del Novecento. Lei, a differenza di altri giornalisti, è non solo ebrea, sa cos'è il nazismo, e cerca di investigare questa figura, cioè per la prima volta si trova a confronto con uno dei persecutori, uno di coloro che hanno deportato il popolo ebraico dall'Europa, dall'intera Europa. Sì, sì, sì. Quindi non si accontenta di seguire il processo, ma si pone delle domande e ha una fulminazione, cioè quello che è successo veramente. Quest'uomo è un burocrate per convinzione, per cultura e educazione, obbedisce degli ordini. Questa cosa la colpisce, e da lì la capacità di mettere in dubbio quello che era poi l'assioma del processo. Questo è un gerarca nazista, è un criminale, sapeva esattamente che cosa faceva, era consapevole, aderiva completamente alla filosofia del Reich per quanto riguarda la distruzione e la deportazione e l'uccisione degli ebrei. In realtà lei capisce, intuisce una cosa formidabile: questo non è un burocrate, non ha niente, e non è capace nemmeno, cosa che è straordinaria, di difendersi adeguatamente in giudizio, perché non è capace di articolare un pensiero continuo. Ecco, proprio su questo punto è uno dei temi cruciali del film, e anche più illuminanti. Hannah Arendt ha prodotto, ha lavorato su due grossi chiamiamoli anche capolavori, che sono La banalità del male e successivamente Le origini del totalitarismo. Il suo atto d'accusa più importante, e questo viene sottolineato nel film, è verso il nazismo, è l'aver annientato il pensiero, al di là della morte fisica nello sterminio nei campi di concentramento degli ebrei, dei nomadi, degli omosessuali, degli oppositori politici, ma il punto cruciale è stato proprio l'annientamento del pensiero in quanto capacità di scelta e di critica. E questo ha determinato un disastro etico a livello globale, non solo tedesco ed europeo. Esattamente quello che ha raccontato la von Trotta in conferenza stampa. L'interesse per il pensiero dell'Arendt, perché l'Arendt si ritrova appunto negli anni 60 a ridiscutere nuovamente questa tematica, cioè il tema del nazismo, appunto il cancellare la coscienza e cancellare la capacità di pensare, di porsi delle domande. Cioè l'Arendt sostiene appunto che l'unica maniera per combattere il male è il pensiero, una grande fiducia, come sostiene la von Trotta, nel positivismo dell'essere umano, nell'essere positivo del pensiero. Sì. Stessa cosa si troverà poi negli anni 60, quando appunto lei vuole discutere, vuole pensare, vuole approfondire, e si troverà in una condizione di non poter affrontare alcuni temi. Il film parla di questo, perché vanno contro quello che è il pensiero unico, che è il pensiero appunto in quel momento forte nello Stato di Israele. Non è discutibile. Ciò che è successo è successo, c'è stato lo sterminio, il nazismo è quello che abbiamo conosciuto, non si può discutere di altro. Ed è questo molto interessante, perché nel discorso finale, che è molto commovente, l'Arendt spiega qual è il senso del proprio reportage e qual è stata l'origine di questo lavoro. Sì. Oh Angelo, io ti chiedo in chiusura i riferimenti della Replace Film, anche per sapere meglio poi la successiva distribuzione dopo queste due date del 27 e 28 gennaio, in occasione del giorno della memoria. Il film può essere seguito tranquillamente, perché il film esce in collaborazione a Replace Film e Nexo Digital. Sul sito della Nexo Digital sono monitorate tutte le sale italiane che programmano il film, con un aggiornamento costante e immediato, quindi è facilmente riscontrabile, diciamo. Benissimo, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci. Grazie presto a ciao. Grazie Angelo. A voi. Angelo Dreicchio della Replace Film, che distribuisce il film Hannah Arendt di Margaret von Trotta, e a partire dalle due giornate dedicate alla giornata della memoria, il 27 e 28 gennaio prossimi. In collegamento ritroviamo Mariangela Barbanente, regista del documentario In viaggio con Cecilia, che comincerà il suo tour in giro per l'Italia il 27 gennaio prossimi. Mariangela, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, intanto una precisazione: il film è di Cecilia Mangini e Mariangela Barbanente. Brava. È una composizione a quattro mani. Esatto. Io sono qua adesso con Cecilia e siamo tutte e due molto emozionate, perché abbiamo fatto una proiezione del film al Festival dei Popoli come evento di apertura il 30 novembre scorso, ma il 27 al Cinema Eden sarà il vero primo confronto con un pubblico pagante, oltretutto. Insomma, siamo in programmazione lì in questa serata alle 20:30 di lunedì 20, e poi da lì cominciamo 27. Scusami, hai ragione. Vedi, sono emozionata. Allora Mariangela, presentaci Cecilia, per chi ci ascolta soprattutto, chi è Cecilia? Allora, Cecilia è una giovane filmmaker che ha iniziato a lavorare con la macchina da presa più o meno nel 59. Nel 58. Adesso te la passo, così ti racconterà dalla sua viva voce la sua biografia, una roba di un paio d'ore. Cecilia, no, ci sei? Biografia, perché non entreremmo